con Monio Vadia che sarà in scena a Roma, al Teatro Vascello, lunedì 16 settembre 2019 con Romeo Sini Grecità all'interno del calendario civile Circolo Gianni Bosio. Moni, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito, un caro saluto agli ascoltatori. Che cos'è questo appuntamento? Ma intanto è un appuntamento col Circolo Gianni Bosio, perché io ho la massima stima del Circolo Gianni Bosio, che ha una grande storia e che ha fra le sue figure di riferimento Alessandro Portelli. Per me Alessandro Portelli, anche se fosse più giovane di me, è un maestro, un grande maestro. È uno storico della rarità, straordinario, conoscitore della letteratura inglese americana di cui è anche insegnante, credo che sia anche visiting professor negli Stati Uniti. E io ho una stima per le persone che hanno fatto della militanza culturale sulla storia del movimento operaio, dei movimenti resistenti, dei ribelli, di ciò che appartiene non solo alla mia formazione culturale e sociopolitica, ma anche al mio profondo sentire etico. Per cui tutte le volte che il Circolo Gianni Bosio mi chiama, io accorro, ecco, un punto e basta. Sarò con una cantante, un musicista. Ho pensato questa volta, ho fatto altre cose però, questa volta di portare un poeta greco e un po' di grecità. Noi non conosciamo la Grecia moderna come dovremmo, la sua tragicissima storia, che ha avuto anche un'ultima coda, la vergogna dei banditi del Fondo Monetario Internazionale della Troica. E io credo che la voce più significativa della Grecia resistente, antifascista, della Grecia profonda, intima, sia stato Ioannis Ritsos, che per me, soggettivamente, il più grande poeta sicuramente del secolo scorso. Io conosco il greco, ho studiato il neoellenico e l'ho letto anche in originale, e voglio portare, perché Ritsos è stato un uomo straordinario, un militante comunista, avesse fatto qualcosa come 15 anni tra galere fasciste e campi di concentramento, subendo torture, violenze che non si possono neanche raccontare. E ha mantenuto integra, ma non ideologicamente, ma umanamente, eticamente, la sua posizione. E ha scritto dei versi, tanto ha scritto tantissimo, scriveva come respirava. E io lo vivo come se fosse mio padre, mio fratello, e voglio che venga conosciuta la Grecia di cui parla Ritsos, questa Grecia straordinaria, fatta di una pietas infinita per la gente, di un rendere giustizia agli ultimi, ma anche lui veramente, non so, rende giustizia agli animali, alla natura, alle cose, e sempre con una statura altissima, per la quale io gli sono debitore, anche se lui purtroppo se n'è andato. Veramente era una personalità incredibile, incredibile. E io lo voglio far conoscere, e sarò con un musicista greco che vive in Italia, Dimitris Kotsiouros degli Edievan, e una cantante italiana però che ha studiato in Grecia, anche lei siamo tutti, abbiamo un greco e due panellenici, che è una cantante fantastica, e ci sarà anche una piccola chicca, perché Roberta, oltre ad essere una cantante, che io amo moltissimo, è anche una prodigiosa ventriloqua, per cui canterà a due voci con la pupazzetta. E la pupazzetta è una satirella, sai, con le corna, gli zoccolini, e così, insomma, è un elemento di leggerezza. Romeo Sini è un poema di una bellezza inimmaginabile, fu anche musicato integralmente da Michis Theodorakis. E veramente io mi sono dato un compito, come posso dire, di militanza culturale nel senso più profondo. Io sento il dovere di far conoscere gli anni Ritsos a più persone possibili. Quindi io reciterò questi versi, saranno inframmezzati da canzoni, da musiche. E così io farò anche riflessione qui e lì. Questo sarà un recital sostanzialmente. Romeo Sini è il termine che Ioannis Ritsos ha coniato per descrivere la grecità, perché ingloba tutta la grecità, perché la grecità è stata il greco ateniese, quello spirito, la tragedia dell'Etria, poi è stato l'ellenismo o ellenismos, cioè quello che la Grecia ha portato nel mondo, da Alessandria a Roma. Pochi sanno che forse il greco era la lingua più parlata a Roma, più del latino, e quindi ha esportato tutto il suo spirito, la sua cultura, l'arte, eccetera. E poi i bizantini, che hanno creato la chiné, quella che si chiama in italiano koiné, quel greco da cui poi pian piano è nato il zimbotiché, il greco moderno. Sai, in Grecia ci sono stati scontri di classe sulla lingua, cioè una storia, quella della Grecia, guarda. Poi per me è come se fosse una seconda patria la Grecia, anche perché la prima non ce l'ho, io ho un paese che è l'Italia, patria non ne voglio, però per dire. E spero che le persone apprezzino la grandezza di Rissos e anche cantiamo delle canzoni, soprattutto rebeltiche, oriental rebeltico, anche per portare una grecità che viene scrostata dal mito paradista della Grecia apollinea e bianca. No, perché la Grecia è collocata proprio fra Oriente e Occidente. E sai che i razzisti tedeschi come Ottfried Müller ci hanno cercato di scotomizzare l'elemento dionisiaco, orientale. Io sono un adetto di Martin Bernal, che è un grecista inglese, lui è un ebreo sefardita naturalizzato, che ha scritto un volume straordinario, un opus magnum intitolato Black Athena, Atene Nea, dove smonta tutte le teorie classiciste e pararazziste e dice l'origine della cultura greca è africano-asiatica, altro che i tori ariani, anche perché se fossero stati gli ariani a fare la cultura greca, perché la cultura greca non è nata nello Schwarzwald o per i fiordi della Norvegia. Questo appuntamento si colloca vicino a una data particolare nell'ambito del calendario civile Gianni Bosio? Non so perché loro abbiano, il 16 settembre io non la ricordo come data, ricordo l'8 che è il momento della liberazione. Certo. E poi, non so, è un mese di distanza dal 16 ottobre che fu la deportazione degli ebrei romani. Diamo... Il calendario civile per me è tutti i giorni, siamo in piazza sulle barricate, nel senso migliore del termine, non sono un violento, ma ho fatto recentemente una conferenza con Alex Zanotelli, il grande Alex Zanotelli, che ha finito l'incontro che abbiamo fatto dicendo disobbedienza civile. Ricordiamo Romeosini Grecità di e con Monio Vadia al Teatro Vascello a Roma lunedì 16 settembre 2019 all'interno del calendario civile Circolo Gianni Bosio. Monio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, grazie dell'invito, ogni bene a tutti voi. Ciao.